Effetto Mondo. Quand la lumière s'éteint, que la lune se cache, j'enfile ma blouse blanche, direction les urgences, le monde est dans l'attente. Moi je m'appelle Balou Samir, je travaille depuis 5 ans à l'hôpital de la Tronche à Grenoble. E va bene, ci abbiamo anche l'infermiere rapper di Grenoble a Effetto Mondo. Ciao Giulia, buongiorno. Ciao, sì, mi ha affascinato questa storia, sì. Lui si chiama Balul Samir e a parte la, insomma, come genere musicale questi rapper delle banlieue secondo me sono bravissimi, però lui appunto si è inventato questo testo qui nel brano che abbiamo sentito, dice infilo il mio camice bianco, corro al pronto soccorso, il mondo è così appeso anche al nostro lavoro, e ha fatto anche un video in ospedale che è diventato, come si dice, virale, quindi su Facebook e in particolare in Francia naturalmente è un grande successo. Anche in questo caso si tratta di rendere omaggio alle persone che lavorano in ospedale, quindi mi è sembrato, insomma, non c'è solo Bon Jovi, ecco, e neanche solo Bono, c'è anche l'infermiere sconosciuto francese. Bella, una bella storia. Giulia, insomma, restando se vuoi in Francia, cosa hai trovato sui giornali di oggi, il livello di andamento dell'epidemia? In Francia si parla di ripartire, però ci sono ancora tanti casi. Sì, come ho sentito che ne avete parlato tanto anche voi, c'è il grande tema della scuola, lo diciamo ancora una volta, in Francia gli orari sono diversi perché quasi tutte le scuole sono a tempo pieno, in generale nel weekend, il sabato non si va a scuola, però si va a scuola più a lungo che in Italia, e questo fa effettivamente la differenza perché riprendere a maggio vuol dire avere almeno altri 2 mesi di scuola. Le Monde ha questo approfondimento anche un po' che raccoglie storie, un po' come arrivano a noi, arrivano a tutti i siti, e dice genitori sull'orlo di una crisi di nervi, perché insomma riuscire per così tante, ormai sono 4-5 settimane di confinamento come lo chiamano loro, sì, anche in Francia, insomma sta diventando veramente pesante. Poi Le Figaro invece in prima pagina mette una foto di anatre che hanno un po' invaso Parigi. Sì, questo è un tema, è un filone interessante, qualcuno dice che è un ritorno alla natura, altri sono un po' inquietati da questa scarsa presenza umana nelle città. Insomma, gli animali si riprendono un po', insomma, quando gli animali arrivano in città, questo è il titolo. Poi il titolo principale di Le Figaro è invece a questo ritorno delle frontiere, che naturalmente fa molto effetto, no? Davamo per come una conquista questa di un'Europa senza frontiere, in realtà in questa emergenza sta venendo fuori anche questo. E poi naturalmente c'è spazio per il Tour de France, che sappiamo è slittato ma non è stato annullato, e poi un po' il ricordo e anche il punto sui lavori di Notre Dame. Ieri cadeva l'anniversario, un anno dall'incendio, ma adesso sembra quasi che insomma quella fosse una tragedia nazionale minore rispetto a quella, anche perché non ci furono morti rispetto a quello che insomma che sta succedendo adesso. Il Tour de France che è stato riprogrammato il 29 d'agosto, giusto? Esatto, la fine dell'estate, infatti. Quindi, come dire, scrive Le Figaro. È forse il primo evento sportivo importante, grande, calendarizzato con una data precisa, che dà così un'idea forse di quello che potrebbe essere quello che accadrà alla fine d'agosto. Insomma, comunque i ciclisti stanno molto vicini tra di loro, poi c'è tutto il tema del pubblico, quindi insomma già un elemento mi sembra interessante. Poi per la Francia non ne parliamo, l'importanza, certo, del Tour de France. Tra l'altro, invece, spostandoci nel, sì, Regno Unito, mi ha, sì, colpito questa notizia che Wimbledon in realtà aveva una sorta di assicurazione a proposito di grandi eventi sportivi cancellati in caso di pandemia, quindi insomma Wimbledon potrebbe avere meno danni economici come organizzazione di altre manifestazioni. I danni naturalmente li avranno non tanto i tennisti, che in generale quelli che partecipano a Wimbledon di soldi da parte ne hanno tanti, ma tutte le persone, dai raccattapalle ai giudici, tutte le persone che lavorano a questi grandi eventi. Assolutamente. Senti Giulia, invece andando negli Stati Uniti, dove in questo periodo la pandemia si mescola con è un anno elettorale, no, questo per gli Stati Uniti, con la campagna. Sì, ieri abbiamo parlato dell'endorsement di Sanders a Biden e ieri invece ne danno conto tutti i giornali. È arrivato quello di Elizabeth Warren, ex candidata sempre a Joe Biden, con un bellissimo messaggio dove ha fatto, non so chi l'ha aiutata, forse ha un figlio molto tecnologico e lei molto tecnologica, ha fatto anche un montaggio con delle foto di Biden da bambino con i genitori. Se vuoi sentiamo le Sì, sue parole in questo passaggio. Elizabeth Warren. But one thing I appreciate about Joe Biden is he will always tell you where he stands. When you disagree, he'll listen. And not just listen, but really hear you and treat you with respect, no matter where you're coming from. È bello perché ha messo anche una musichetta in sottofondo, insomma, un atteggiamento un po' bucolico. Del resto, ricordiamolo, Donald Trump, per prenderla in giro, la chiamava Pocahontas, come dire la ragazza ingenua. E lei dice: la cosa bella di Joe Biden è che ti dice sempre chiaramente qual è la sua posizione, e poi che se tu gli esponi la tua, che anche può essere diversa, naturalmente, lei dice: tante volte ci siamo trovati in disaccordo, non soltanto lui sente, lui ti ascolta e ti rispetta. E lei poi spiega che questo l'ha imparato perché nella precedente amministrazione, quella Obama, lei in quanto democratica era stata chiamata come consulente per alcune commissioni e quindi aveva lavorato con Joe Biden, che all'epoca era vicepresidente. E quindi, insomma, un altro endorsement. Poi purtroppo in realtà i titoli principali sono dedicati a questo catastrofico, così vengono definiti dal New York Times, questi catastrofici dati sulle vendite al dettaglio negli Stati Uniti, che hanno fatto insomma, sono quei grafici come quello dei sussidi di disoccupazione che arriveranno nel nostro pomeriggio, quelle impennate, in questo caso per i sussidi un'impennata naturalmente verso l'alto, e qui le vendite è proprio un'impennata verso il basso, quindi preoccupa ancora molto la situazione economica. Ecco, sempre sugli Stati Uniti, a dimostrazione che davvero tutto il mondo è paese, mi segnala ancora forte la polemica tra Trump e i governatori, un po' come da noi, governo con le regioni. Sì, gli Stati Uniti sono uno Stato autenticamente federale e sappiamo che proprio, cioè, no, per noi è stato un po' un processo, no? Sappiamo per esempio la responsabilità della sanità alle regioni è abbastanza recente. Gli Stati Uniti sono nati proprio come un'unione di diversi stati, quindi è un problema sentito in modo diverso, insomma, da loro. Però Trump, come dicevamo ieri, adesso vorrebbe veramente controllare la situazione e dare delle linee guida regionali. Il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, che ha le prese con mancanza di test, capire anche lì quando riaprire le scuole, ieri si è molto arrabbiato e ha detto: Trump si sente un re e questo paese non è nato per avere dei re. Se vuoi, sentiamo le sue parole. Sentiamo Cuomo, vai. And it says the federal government does not have absolute power. It says the exact opposite that the president said. It says that would be a king. We would have had King George Washington, and we didn't have King George Washington, and we don't have King Trump, we have President Trump. Oh, sono sempre molto musicati questi video, a differenza dei nostri che fanno dirette Facebook un pochino più semplici, Sì, politici. qui tra l'altro è molto interessante anche tutto questo intervento, Sì. perché spiega quanto è prezioso per gli Stati Uniti il balance of power, cioè è una democrazia presidenziale nata per avere appunto questo equilibrio di poteri. Adesso vedremo come andrà avanti, anche perché i dati dello stato di New York non sono granché buoni. C'è il tema dei tamponi, dei test, che tra l'altro ti segnalo, persino in Sudafrica ormai, visto che sentivo Sì. che qui in Italia abbiamo ancora problemi, in Sudafrica per le strade ci sono dei poliziotti che te li fanno, come è successo in Corea del Sud, e uno si chiede: ma cosa può essere mai successo qui da noi perché non si sia riusciti ad avere lo stesso tipo di organizzazione? Comunque, insomma, Lo scopriremo un vedremo. giorno, speriamo presto. Invece, Giulia, mi segnali che in Corea del Sud ci sono notizie interessanti dal punto di Sì, vista ci politico. sono, Sì. abbiamo sentito 2 giorni fa il mio nuovo mito, il ministro degli Sì. esteri coreano, che è una donna, e si votava, ieri si è votato in Corea del Sud, e il Wall Street Journal mette in prima pagina innanzitutto la foto dello scrutinio, perché il voto è Ecco. avvenuto non fisicamente, insomma, tutti bardati, con doppie mascherine, guanti, però è avvenuto così ed è stato proprio una vittoria schiacciante per i partiti che sono al governo, ovviamente sulla scena scia dell'ottima gestione dell'epidemia da coronavirus che hanno dimostrato. E ancora una volta il Wall Street Journal spiega, se andiamo a vedere come mai, era soprattutto perché il paese aveva preparato questi scenari di pandemia, ma anche in generale di sovraccarico del sistema sanitario nazionale. Poi sono un paese ipertecnologico, non si sono fatti problemi, il Wall Street Journal lo sottolinea ancora una volta, a usare le famose app di tracciamento, e insomma il risultato è questo, e gli elettori hanno capito e reagito. Anche gestire comunque una elezione politica in un frangente come questo è un segno interessante, insomma, di capacità di reagire. Tra l'altro c'è anche il tema del percorso che porterà alle elezioni americane in novembre, perché lo sappiamo, negli Stati Uniti non esiste il finanziamento pubblico ai partiti, quindi naturalmente da qui a novembre il Partito Democratico pensava di continuare a fare le convention, di fare addirittura quelle campagne porta a porta, perché così è negli Stati Uniti, per raccogliere fondi, cosa che naturalmente non si potrà fare. E quindi tornando a Elizabeth Warren, tra le altre cose ha detto candidamente, come succede negli Stati Uniti spesso quando si parla di questioni personali anche economiche, e mi raccomando, continuate a donare, perché naturalmente la campagna elettorale sarà comunque molto, molto dispendiosa per Joe Biden, e quindi insomma continua il crowdfunding per la campagna dei democratici. Benissimo, grazie Giulia, ci risentiamo domani con te, domani, ma anche con il programma. È tutto per oggi, con Andrea Roccabella in regia, Elisabetta Fusconi in assistenza in diretta, Jacopo De Franchi in redazione, da Alessio Maurizi. Ciao, auguri di una buona giornata, ci sentiamo tra poco per gli aggiornamenti delle 14.